Il punto di Stefano Folli. E ora si cerca di rimettere al centro il Parlamento. È l'obiettivo di Napolitano a questo punto, il tentativo di riprendere il dialogo tra le forze politiche, adesso che la maggioranza è cambiata e che la destra ha creato un partito berlusconiano militante, fortemente tentato dalla posizione totale verso le istituzioni. Ecco perché il Quirinale si sta sforzando di riannodare i fili, per tenere Berlusconi ancorato a una posizione più realistica e al tempo stesso per non pregiudicare il percorso delle riforme costituzionali. Senza il concorso di Forza Italia tutto diventa più difficile, forse impossibile. Con un minimo di apporto della destra è invece possibile riprendere il filo spezzato, a cominciare dalla riforma della legge elettorale, per la quale i tempi sono davvero maturi, visto che fra pochi giorni la Corte Costituzionale si esprimerà e questo elemento nuovo rende ineludibili le responsabilità delle forze parlamentari, quelle di maggioranza e ovviamente anche quelle di opposizione.